Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo due figure topiche, due archetipi della letteratura universale. Il primo è il Pelle Rossa, che ha avuto tanta influenza sulla letteratura e non soltanto degli Stati Uniti. E questa figura ci viene illustrata nel libro di Leslie Fiedler, Il ritorno del Pelle Rossa, mito e letteratura in America. È pubblicato da Guam, 284 pagine, 22 euro, tradotto da Luigi Brioschi. In questo libro troviamo la storia di che cosa abbia rappresentato per l'America la corsa al West e la scoperta dei territori selvaggi e delle popolazioni indigene che le occupavano. Ne nascono da questa sorpresa, da questa scoperta, alcuni miti fondanti di cui troveremo tracce nel tempo fino a oggi, nel cinema, nella letteratura e nell'arte americana. E questi miti fondanti sono definiti dall'autore la fine del matriarcato, l'amore nei boschi, le due madri di noi tutti, il sogno cosciente. Tutti miti che si riassumono nella figura mitica di Pocahontas. E questi miti naturalmente vengono qua illustrati nelle interpretazioni artistiche fino appunto a quelle cinematografiche. A proposito di Pelle Rossa, vi segnalo il libro che raccoglie i canti degli indiani d'America, pubblicato da Newton Compton, 208 pagine, 4,90 euro, ed è tradotto da Francesca Toticchi. Un altro archetipo della letteratura occidentale è la prostituta, che troviamo al centro del libro di Giuseppe Scarafia, Le signore della notte, pubblicato da Mondadori, 162 pagine, 19 euro. Il tema può apparire scivoloso, scabroso, ma viene trattato qui con grande finezza per illustrare il rapporto antico come il mondo dell'uomo, in particolare degli artisti, con le mercenarie del sesso. E qui troviamo tante testimonianze letterarie su questo rapporto, un rapporto che ci fa capire molto cose sull'evoluzione della società da un punto di vista naturalmente particolare. E sentiamo su questo l'autore. Buongiorno a Giuseppe Scarafia. Buongiorno. Dunque, Giuseppe Scarafia, da questo libro risulta che praticamente tutti gli artisti sono stati affascinati, condizionati dal loro rapporto con le case di tolleranza, non è così? Ma è così, ed è una cosa che mi ha colpito molto, anche perché secondo me c'è una somiglianza di fondo tra l'artista e la prostituta in questo tentativo di affascinare il mondo e di vivere grazie al proprio fascino. Ecco, fra l'altro nelle case di tolleranza scopriamo che si faceva spesso anche politica, c'è un buffo aneddoto che riguarda per esempio Vitaliano Brancati. Sì, Brancati appunto, che faceva una serie di scherzi in politica. Ecco, la cosa curiosa è che nelle case chiuse la politica però raramente degenerava in uno scontro. Noi vediamo che a un certo punto c'è un gruppo rivoluzionario verde, il gruppo Ottobre, che va a Amburgo, nei famosi casini di Amburgo frequentati dai nazisti, e tutto si svolge tranquillamente, come se fosse una specie di danza rispetto alla vita. Ecco, alcuni di questi personaggi, dei personaggi femminili, dico, servirono anche a dare un po' di sicurezza ai loro partner. Per esempio c'è questo aneddoto su Napoleone, che riconobbe che la prostituta che aveva incontrato, la passeggiatrice, almeno mi rispondeva, ed era un successo che non aveva mai coronato i miei tentativi con le altre. Questo è ancora il giovane Napoleone. Quella di Napoleone è una storia abbastanza commovente, l'idea di questo giovane ufficiale squattrinato, bruttino, no, cui nessuno parla, e che riesce soltanto a pagamento a realizzare un rapporto che cerca subito di umanizzare chiedendo alla prostituta come lo è diventata. È una specie di debutto che non ci aspettiamo da Napoleone. Certo. Senta, poi a un certo punto i letterati cominciano anche a manifestare i loro sentimenti nei confronti di queste professioni, sentimenti naturalmente di pietà, di compassione. Si parla qua di Jack London, di Flaubert, che danno voce a questo sentimento di partecipazione alle sofferenze di queste donne. Certamente, erano molto sensibili a queste sofferenze e nel contempo però non smettevano di frequentare i bordelli e le case d'appuntamento. È un curioso atteggiamento, anche per esempio Kafka, no, che sceglie le più brutte, non si capisce se è un gusto estetico appunto kafkiano oppure un senso di pietà. È veramente un rapporto misterioso. E questo rapporto forse esplode dal punto di vista letterario nel periodo del romanticismo, a leggere il suo libro? Sì, nel periodo del romanticismo sì, perché finalmente la prostituta diventa un personaggio, cioè non è che non ci fosse prima, però veniva degnata di pochissima attenzione, l'unico che ne parlava appunto era Don Chisciotte, che si sbagliava e trasformava una brutta prostituta in una specie di dea, però tutto era molto ironico. Invece col romanticismo cominciano ad avere un volto, cominciano ad avere dei nomi, cominciano a passare nei libri in cui c'è veramente una sterminata marea di personaggi appunto presi dal marciapiede. E a proposito dei personaggi, il suo libro si chiude appunto con un lungo elenco letterario di prostitute che hanno sfidato l'eternità dalle pagine del libro che ne parla. Ecco, di questi personaggi, a lei quale fa più simpatia? A me fanno più simpatia quelle molto concrete di Maupassant, che era un grande frequentatore di prostitute, lo chiamavano il toro triste, era capace di reiterate dimostrazioni della propria virilità. Ecco, e queste prostitute, sia che sia Palla di Sego, sia che sia un'altra appunto che reagisce violentemente agli invasori prussiani, sono delle prostitute, diciamo, sane, patriottiche, che non si vergognano del loro mestiere. Senti, un'ultima domanda. Lei sottolinea nel suo libro il contrasto tra il comportamento diffuso anche oggi di molti maschi e il tabù della prostituzione, e sospetta che ci sia di mezzo una certa prevenzione nei confronti del denaro, che poi l'argomento che regola questo rapporto. Ma guardi, più passa il tempo più mi convinco che per i poveri maschi d'oggi, così spaventati dalle donne che, anche se ostentano abbigliamenti sexy vicini a quelli della prostituzione, poi in realtà sono molto maschili e aggressive, si illudano di stabilire un rapporto di dominio con la prostituta proprio tramite il denaro. E quindi, insomma, bisogna stare attenti, direi, alle ragazze. Bene, soprattutto leggendo questo libro. Grazie a Giuseppe Scarafì, autore delle Signore della Notte. Buona domenica. Grazie. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un libro a doppia firma di due firme famose presso i lettori del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore. Il primo è Sergio Romano e il secondo è il figlio Beda Romano, che insieme hanno scritto La Chiesa contro dalla sessualità all'eutanasia, tutti no all'Europa moderna, pubblicato da Longanesi, 250 pagine, 16,60 €. Come stanno reagendo gli Stati e la Chiesa alle grandi rivoluzioni che si sono manifestate negli ultimi decenni, e cioè quella nei costumi sessuali e quella nella bioetica? Questo è il tema sul quale verte questo libro, che è diviso in due parti. La prima parte, affidata a Sergio Romano, esamina la proiezione pubblica della Chiesa cattolica dall'Ottocento a oggi, che è stata squassata negli ultimi decenni da svolte e scandali come il 68, la rivoluzione sessuale o il caso dei preti pedofili. L'altra parte invece è affidata al figlio, a Beda Romano, il quale esamina alcuni casi di legislazioni nazionali su questi temi e la posizione della Chiesa. La tesi del libro dei due autori è molto critica nei confronti della Chiesa, che appunto manifesta la sua contrarietà a queste due rivoluzioni. Vi segnalo poi un thriller di cui autore un manager molto noto, che ha avuto anche importanti incarichi pubblici essendo stato autorevole esponente dell'amministrazione comunitaria Bruxelles, cioè Riccardo Perisic, che si cimenta con le regole del gioco, è pubblicato da Longanesi, 398 pagine, 17,60 €. Il libro è un buon esordio che riesce a catturare l'attenzione del lettore in un'avventura che lo porterà in mezzo mondo, con al centro un complotto internazionale di cui è difficile tirare le fila. E un poliziotto troviamo nel titolo del libro di un autore cileno-spagnolo che ha una sua cerchia di lettori molto fedeli, e cioè Roberto Bolaño. Il libro si intitola I dispiaceri del vero poliziotto, è pubblicato da Adelphi, 304 pagine, 19 € ed è tradotto da Ilide Carmignani. Questo è il libro al quale lo scrittore lavorò fino a poco tempo prima della sua morte, ed è un libro sorprendente come nello stile dello scrittore, e proprio qua ritroviamo tra l'altro alcuni personaggi del suo famoso romanzo 2666. E a questo punto il confettino. Vi presento oggi una doppia proposta sul tema del lupo. Il primo è il libro di Monique Félix, che è una scrittrice e disegnatrice svizzera, che si intitola La Voce, pubblicato da Gallucci, 24 pagine, 15 €. E questo è un libro sulle reazioni che possono suscitare le chiacchiere appunto sull'arrivo di un lupo famelico presso una tranquilla comunità di animali, che poi finirà per ritrovarsi a tavola, ma non per mangiarsi a vicenda. Il secondo volume è Attenti al lupo, di Zoe Alley, illustrato da R.V. Alley, è pubblicato da Castoro, 34 pagine, 18 € ed è tradotto da Laura Bortoluzzi. Questa invece è una rivisitazione molto illustrata di alcune fiabe nella quale il lupo fa la parte del cattivo, dai Tre Porcellini a Cappuccetto Rosso. Happy birthday to you. con Stevie Wonder diciamo buon compleanno alla Salerno Editrice, una casa editrice di Roma che compie nei prossimi giorni 40 anni. Sono stati 40 anni importanti, segnate da iniziative editoriali molto significative, con grandi opere come quelle dedicate allo spazio letterario di Roma antica, della Grecia antica, del Medioevo, alla storia della letteratura italiana e la storia d'Europa. Un totale di volumi pubblicati in questi 40 anni di oltre 860, con circa 1400 volumi o tomi. Vi segnalo che da ultimo, negli ultimi giorni di Salerno Editrice, sono andati in libreria un libro di William Mulligan, Le origini della prima guerra mondiale, un volume della serie dedicata all'edizione nazionale, quindi tutte le opere di Pietro Aretino, queste sono le opere religiose, e poi un altro volume molto importante dedicato al Machiavelli, perché la Salerno ne sta pubblicando l'edizione nazionale, e viene in libreria il volume dedicato alle legazioni, commisserie e scritti di governo. Auguri a Salerno Editrice. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Venerdì 27 ricordiamo il giorno della memoria, in cui appunto faremo memoria della Shoah, e in questa occasione vi voglio segnalare il libro di Stefania Consenti, che è una giornalista del giorno, Il futuro della memoria, pubblicato da Pauline, 140 pagine, 11,50 euro. Il libro è diviso in due parti. All'inizio abbiamo tre conversazioni con altrettanti eroi come Nedo Fiano, Liliana Segre e Piero Terracina, tutti detenuti all'inizio da Firenze e da Milano e da Roma ad Auschwitz e a Buchenwald, e che sono tutti e tre molto attivi adesso sul fronte appunto della testimonianza della persecuzione agli ebrei. E poi c'è una parte dedicata alla storia delle persecuzioni razziali, con alcune riflessioni molto interessanti per gli educatori, soprattutto su come affrontare questi temi, su come invitare i giovani a riflettere su questi temi, e si parla anche di alcune esperienze significative come quella del liceo Tito Livio di Milano. Questa del come raccontare la memoria, del come avvicinare i giovani, è una sfida importante, perché come nota una testimone citata nel libro, una docente della Cattolica di Milano, la professoressa Milena Santerini: da quando è stata istituita la giornata della memoria, la cito, si sono moltiplicate le iniziative, ma di contro sono aumentati gli effetti perversi e contrari, come il rischio della banalizzazione della retorica. Tutt'altro che banalizzazione retorica troviamo nel libro di un altro importante testimone di quegli anni sciagurati, e cioè Gianfranco Maris, un avvocato milanese 91enne che è stato a lungo senatore del Partito Comunista e attualmente è presidente dell'ANED, cioè l'Associazione Nazionale Ex Deportati Politici, nonché della Fondazione Memoria della Deportazione. Con Michele Brambilla, che è un giornalista della Stampa, ha scritto il libro Per ogni pidocchio, 5 bastonati, i miei giorni a Mauthausen, è pubblicato da Mondadori, 150 pagine, 17,50 euro. A Mauthausen Maris fu recluso per 265 giorni, fino alla liberazione il 5 maggio del 1945, quando arrivarono gli americani. Pesava, precisa l'autore, 38 chili. E questo è un racconto piano e drammatico sugli ultimi mesi del fascismo, l'adesione al Partito Comunista e alla Resistenza, e poi l'arresto e la deportazione, prima a Fossoli e poi a Mauthausen. Con lui partirono 289 deportati, di cui solo 137 sarebbero ritornati. E nel libro troviamo un documento assai toccante e significativo, cioè l'elenco completo dei nomi di quel gruppo. E poi naturalmente troviamo la descrizione del regime del campo, tra angherie, crudeltà, discussioni con i compagni, come quella per esempio con un coetaneo, che purtroppo morirà da lì a poco, col quale Maris condivide un inumano lavoro dentro un silos, un lavoro confortato proprio dalla conversazione col compagno, che non fa che parlargli di Benedetto Croce. Voglio adesso proporvi un omaggio alla cultura ebraica con due libri di narrativa. Il primo è di Nir Baram, uno scrittore israeliano che con questo libro che adesso vi propongo ha avuto un grande successo e a mio parere meritato. Il libro si intitola Brave persone, pubblicato da Ponte alle Grazie, 564 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Elisa Carandina. Questo è un inquietante libro parallelo sulle persecuzioni messe in atto dai regimi totalitari. Da un lato abbiamo la storia di Thomas Heiselberg nel nazismo, che stringe la morsa intorno agli ebrei, e dall'altro quella di Alexandra Andreevna Weisberg, un'ebrea russa che negli stessi anni è testimone delle purghe staliniane, molte delle quali condotte naturalmente contro gli ebrei. Le due brave persone, nell'approssimarsi delle catastrofi, sostanzialmente pensano solo a se stesse. Non possono neanche essere definite cattive, ma dimostrano di non saper reagire a quanto succede intorno a loro, se non rendendosi complici di fatto dei misfatti disfatti che il comunismo e il nazismo stanno compiendo. E dunque il libro diventa una riflessione sulla responsabilità personale. Thomas, per esempio, finisce col dare una mano involontaria all'invasione della Polonia, predisponendo, da ricercatore di mercato quale egli è, un rapporto che servirà a gestire appunto il paese dopo quel dramma. La donna invece si trasformerà in una specie di aguzzina. Qui non troviamo lager, non troviamo gulag, ma troviamo il clima che li ha preparati, quel clima che Hannah Arendt bloccò come la banalità del male. L'altro autore è Anatoly Krim, ucraino, autore di alcune novelle raccolte nel volume Racconti intorno alla felicità ebraica, pubblicato da Spirali, 324 pagine, 18 euro, tradotte da Elena Gori Corti. Qui il regista è diverso, è un registro ironico e beffardo sul modo in cui gli ebrei russi vivevano in Ucraina, dalle persecuzioni di Stalin fino alla perestroica di Gorbaciov e poi all'indipendenza. Sono racconti spesso fantastici, come quello della donna che risolve un grosso problema dialogando col marito defunto che le appare regolarmente in sogno, o beffardi, come quello di un intellettuale ebreo diventato all'improvviso un autentico pallone gonfiato e che scoppia quando qualcuno avrà il coraggio di dire che il re è nudo. Anche questo libro è una testimonianza, in questo caso spesso esilarante, sui drammi prodotti dal totalitarismo che anche nell'URSS comunista con gli ebrei accusati di anticosmopolitismo non ci andrò certo con la mano leggera. Sentite da uno dei racconti il cambiamento di clima che appunto avvenne in maniera forse abbastanza strumentale sotto gli anni di Gorbaciov. Tutto mutò con lo storico discorso di Gorbaciov sulla perestroika. Ovviamente Mikhail Sergeevich non aveva nessun rapporto personale con Iosif Pork. A Gorbaciov, per quanto ne so, non era stato nemmeno riferito che nel suo immenso e sconclusionato dominio figurava tale scrittore. Semplicemente il giorno in cui il segretario generale comunicò emozionato al paese che senza un processo nuovo non si sarebbe andati avanti, spirò il decano della corporazione ebraica e Iosif divenne improvvisamente l'ebreo principale dell'Unione degli Scrittori, nonché, secondo i rigorosi costumi del nostro paese, il principale ebreo della città, perché era considerato sconveniente che un ingegnere di una fabbrica segreta o un docente universitario divulgasse la propria inopportuna ascendenza semitica, mentre nell'ambiente degli scrittori ciò veniva sollecitato a testimonianza dell'indistruttibile amicizia fra tutte le tribù dello Stato in questione, sia semitiche che antitetiche. Perfino l'unica e irripetibile rivista moscovita che aveva spaventato i censori con l'alfabeto massonico ribadiva alla sospettosa comunità mondiale che da noi era tutto in ordine con la questione ebraica, ovvero che non esisteva affatto. Vi ricordo adesso due appuntamenti. Il primo a Bologna, dal 27 al 30 gennaio si svolge Arte Fiera, che è la grande fiera dell'arte contemporanea. In questa occasione vi voglio presentare un libro che parla di una protagonista dell'arte contemporanea molto provocatrice e discussa, cioè Marina Abramović. Il libro si intitola Quando Marina Abramović morirà, è di James Westcott, che è un giornalista e in passato collaboratore della stessa Abramović. È pubblicato da Joan Levy, 350 pagine, 32 euro, ed è tradotto da Irene Inserra e Marcella Mancini. L'opera qui in questo caso è un'opera autorizzata per accostarsi a questa artista famosa per le sue performance in certi casi estremi, tra cui quella di New York nel 2002, nel corso della quale l'Abramović visse e digiunò in pubblico per 12 giorni. E proprio da quell'occasione scaturì l'incontro tra l'artista e il suo biografo, e da lì nasce questa collaborazione che sfocia in questa lunga biografia, nella quale la vita dell'artista, ma soprattutto gli sviluppi della performance art, vengono messi a fuoco. Abramović vuole a tutti i costi difendere questa disciplina alla quale lei ha dato un po' il nome, appunto la performance art, una disciplina di cui ella stessa si considera la nonna. L'altro appuntamento è un appuntamento domestico, perché ha luogo qui al Sole 24 Ore, mercoledì 25 gennaio alle 18, viene presentato in un modo insolito il libro L'ingranaggio della libertà di David Friedman, pubblicato da Liberi Libri. David Friedman è il figlio del noto economista, lui stesso economista, famoso negli Stati Uniti per essere uno dei pionieri dell'anarcocapitalismo, e a questo libro darà voce un confronto fra Armando Massarenti, che come sapete è il responsabile del Sole 24 Ore della domenica, e Massimiliano Finazzer Flori. Quindi mercoledì 25 gennaio alle ore 18, se qualcuno mi vorrà salutare, ci sarò anch'io a fare un saluto con Serena Sileoni. E con questo ringrazio Luca Cremonese, Stefania Tagliaferri in redazione, Paolo Corleoni in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, sul quale potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.